Allora, Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le sigle non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Salve, sono in linea con i due simpatici stronzi, lì Cruciani e quell'altro lì, come cavolo si chiama, Parenzala. Io ho conosciuto l'odio quando ho sentito la voce di Parenzo. Cruciani, datti una calmata, dai, capito? La zanzara, quella trasmissione a cui partecipa anche Parenzo, è odiata da tantissimi e amata da altri, no? Ecco, si esercita la stessa cosa, non è che il servizio pubblico è una cosa diversa. Probabilmente non interessa a nessuno, però bisognerebbe fare una grandissima battaglia di libertà per consentire, ripeto, ai fascisti, perché così si dichiarano, fermo lì, ai fascisti, perché si dichiarano tali, ai fascisti di Casa Pound, alleati della Lega in alcune tornate elettorali, e soprattutto le ultime tornate elettorali, bisognerebbe permettere a questi signori, ripeto, fascisti di Casa Pound, di fare dove vogliono le loro manifestazioni, i loro raduni, perché le cose sono due: o si dichiara Casa Pound movimento anticostituzionale, illegale, o lo si caccia dal dibattito pubblico, dalla possibilità di partecipare alle elezioni, oppure chi nega i permessi per un dibattito, per un convegno, per un raduno, per un comizio, cui partecipano anche esponenti di altri partiti, è semplicemente ridicolo. Sono gli ultimi epigoni di un antifascismo che ormai è praticamente ridicolo. Per cui il punto è molto semplice, la libertà passa anche attraverso la possibilità che deve essere data a gente che si dichiara apertamente fascista di poter parlare. Questo è il punto fondamentale. Che cos'è che non torna in questo ragionamento, Parenzo? Spiegami che cos'è, no, che non torna. No, è perfetto, è un ragionamento radicale, è un ragionamento che così, sì, sembra allora anche quasi politicamente corretto da un punto di vista. Politicamente, no? Corretto? Beh, sì, è molto politicamente è logico, corretto. Che è logico. Tutti possano parlare. Beh, certo. Stupidaggine clamorosa, cioè chi parla contro, negando i diritti fondamentali. Ma che vuol dire? Che vuol non dire? È che tutti hanno diritto. Stiamo ai fatti, il prefetto di Milano loro non possono fare la loro adunata gazzarra, tu dici manifestazione, raduno, ci vanno un sacco di esponenti di partito. Il prefetto di Milano, vabbè, ma non me ne frega niente del prefetto di Milano, non i comunisti, ma lo fanno perché sono costretti a farlo dall'ondata di ridicolaggine. Il prefetto, persona serissima, prefetto di Milano, sbaglia. Se lo fa per motivi di ordine pubblico, può darsi. Per motivi di ordine pubblico lo ha fatto e ha fatto molto bene. Arrivederci e grazie. Ospite di lì a casa tua, se mai. Ma è casa mia, non ospite nessuno. Io non condivido. Di casa tua, i tuoi amici di casa Paolo con le bandiere, quel signore con quella barba. Io non condivido nulla di quello che dicono. Non condivido nulla. Gli amici di casa Paolo. Ma non c'entra niente. Non sono amici miei, non condivido nulla. Di casa tua. E no. Fai la tua adunata. Io non condivido nulla di quello che dicono i signori di Casa Pound, però credo che abbiano tutto il diritto di dire quello rispetto che pensano. Ma che c'entra la legge? Non c'entra una mazza. Ma che c'entra la legge? Perché sempre ma che c'entra? Allora, la siamo legge? In presenza di un sindaco chiaramente. Ah no, sentiamo il capo di Casa Pound, vai, Iannone, che cosa dice? Signor Iannone. Signor Iannone, dai. La notizia dovrebbe essere che il sindaco ha ritirato all'ultimo momento questa autorizzazione e quindi ci troviamo qui perché non possiamo andare altrove, e quindi siamo qui perché comunque esiste un clima intimidatorio, mafioso, talebano e quant'altro che decide chi può parlare e chi no. Dire la verità, su questo punto adesso non so se si possa definire clima mafioso e talebano, però certamente ha tutto il diritto di parlare, altrimenti lo si estrometta dalle elezioni. Allora, abbiamo in realtà poi un sindaco di Roma, che si chiama Marino, il quale sostiene di essere andato in vacanza negli Stati Uniti, per motivi di sicurezza. Allora, io voglio dire una cosa, il prefetto, il ministero degli interni conferma questa cosa, cioè che gli hanno detto guarda vai in America perché è come dire Roma non è sicura, non so, o comunque l'Italia non è sicura, no? Cioè certo. È una cosa incredibile quella che ha detto Marino. No, hai ragione, cioè, allora, o il ministero degli interni o il prefetto, non so chi, conferma che hanno spinto Marino ad andare via da Roma, via dall'Italia per motivi di sicurezza, oppure mi sembra una cosa assurda. Cioè lui dice io sono andato in America non perché per fatti miei, cosa che sarebbe assolutamente normale, no? Ma dice io sono andato contro la mia volontà, cioè in vacanza in America contro la mia volontà. Io mi trovavo negli Stati Uniti, voglio subito dire qualcosa a cui tengo, per motivi al di fuori della mia volontà, perché negli ultimi mesi ho ricevuto diverse minacce di morte che erano dirette con lettere scritte a me, a mia moglie e a mia figlia, e diverse volte buste con le pallottole. Io che ho iniziato il mio periodo, lei lo sa bene, da sindaco andando in bicicletta, adesso devo muovermi con 3 macchine e 6 uomini di scorta. Cioè voleva stare 14 giorni senza scorta, questo dice. Beh, voleva stare 14 anche legittimo. Sì, no, ma va benissimo tutto, però è come però se la lui... questione è quella che hai posto tu, è vero? Cioè, lo hanno spinto in America fuori dall'Italia perché l'Italia non è sicura per Marino, perché Roma non è sicura, oppure perché lui voleva passare solamente 14 giorni senza scorta? No, a parte che comunque questo che è legittimo che uno passi 14 giorni senza avere tra le palle nessuna. Dopodiché è anche vero che a me Marino non piace, fosse rimasto qui probabilmente cosa sarebbe successo? No, se ha tutta quell'esercito di scorta lì, no? Sì. Tutta quella allora, il sindaco di Roma va in vacanza nelle vicinanze in Italia, non va in America per 15 giorni. Può succedere di tutto a Roma può succedere qualsiasi cosa, perché è una grande città, non è che fai il sindaco di Fracazzo da Velletri, fai il sindaco di Roma e vai a 100, 200, 300, 400 km, sono posti meravigliosi in Italia. Ma infatti è in torto. Dai, su, basta. No, non c'è dubbio, è in torto. Allora, contro Vespa ancora, perché devo pagare il canone per avere i Casamonica nel mio salotto? Io penso che sia stato un errore e mi chiedo, ma perché se questo è il servizio pubblico io devo pagare la tassa di proprietà del televisore, il canone, se poi qualcuno mi porta nel salotto di casa mia, nel salotto di milioni di persone, quella famiglia che giustamente tutti voi dei media avete detto quella manifestazione violenta di potere con quel funerale è stata sbagliata. Allora, c'è un signore che si chiama Boccadutri, che molti di voi non lo conoscono sicuramente, è un signore di Selle, in realtà, anzi no, col PD, perché è passato da Selle al PD. Già, ci sarebbe da discutere su questo, ma lasciamo perdere. Signore, tanti l'hanno fatto. No, ma per me male. Ma un signore che si chiama Boccadutri, il quale è quello che sostanzialmente ha messo la sua firma in questa leggina, e che dà ai partiti 45 milioni nonostante il fatto che non abbiano bilanci, nessuno ha certificato i bilanci dei partiti. Ma senti che espressioni usa colui che ha firmato la leggina in Parlamento. Sentite questa frase. Vedete, avete anche detto che noi mettiamo i soldi nelle tasche, le mani nelle tasche dei cittadini. Siete forse accorti? E i dati sono del 10 agosto, che invece i cittadini hanno uscito il loro portafoglio e hanno dato i soldi ai partiti già il 10 agosto 1 milione, e vedremo a fine anno. A parte che i cittadini col 2 per 1000 l'hanno dato spiccioli ai partiti, pochissimo ai partiti, ma l'espressione è curiosa, cioè noi siamo in mano, per carità, noi ci facciamo degli sfondoni pazzeschi, il Parlamento è un altro discorso, i cittadini hanno uscito il loro portafoglio, bellissimo. I cittadini hanno uscito i loro portafogli, bellissimo. Boccadutri. Allora, caro Parenzo, andrà alla raduno. Volevo anche segnalarti, prima che tu continui, così lo facciamo sentire nella seconda parte, l'ultima grande canzone sui profughi del signor Dado. Sì, la faremo sentire sicuramente. Me l'ha appena mandato in esclusiva assoluta. Sì, adesso la facciamo sentire. Però ti voglio anche segnalare che credo che trasformerò la canzone di Vittorino Casamonica nella sigla della Zanzara, credo. Cioè, no, la canzone di Vittorino Casamonica diventerà. Ma poi ci danno il 41 bis. Ma che 41 bis? Al massimo ci danno i diritti, le royalties ci daranno. Sai chi andrà da Casa Pound, credo, domani? Sai chi andrà? No, allora, Lara Comi. Sì, Lara Comi di Forza Italia. Anche Gianluca Buonanno. Gianluca, buonasera, ciao. Beh, vabbè, ciao a tutti, non mi buonasera. Come? Non mi stupisce. In che senso non ti stupisce? Non ho capito. Non mi stupisce nel senso che le pere vanno con le pere, gli animali vanno con gli animali e quindi non... Ma cioè, dimmi, non, dimmi, è che tu, non è che tu, io sono qui a Camoglia al Festival della Comunicazione. Sì, ce ne fottiamo. Non è che ho visto prima Umberto Eco. Ma no, ce ne fottiamo totalmente. Io posso fare l'eco, Non va lì. Se tu mi dici, sai chi è la notizia clamorosa? Sai chi va a Casa Pound? Uno si attende un nome roboante, no? Beh, Feltri va, per esempio, Feltri, perché non glielo dici in faccia a Feltri? Feltri si sa, Feltri ha come questa posizione intellettuale un po' come la ma tua. Ma che intellettuale? No? Ma non c'è nessuna posizione intellettuale. Sì, se questi sì, qua... sì, la vostra posizione da veri radical snob, non radical chic, radical sì, snob. Sì, radical no? Snob. Bene, vanno tutti mentre bene, tranne che detto l'onorevole sì. Del circo, il Buonanno. No, che ha fatto? Non ricordo neanche come si chiama. Guarda. Buon anno. Una volta sì, lo chiamavi non ricordi, dai, non fare così. Non voglio neanche pronunciare. È evidente che vado, vuoi che vado. Cioè, Davide, mi stupirebbe andasse alla festa del PD. Mi stupirebbe che il PD lo invitasse, ma non lo invitano per fortuna. Non mi stupisce che vada lì in quel cove, in quella donata lì, va bene. Vabbè, vado a parlare sui Marò, quindi la giornata più importante. Vabbè, ma tu non ti vergogni, Marò. Non te ne frega niente di andare da Casa Pound, tutte le polemiche, eccetera, il fascismo. No, cioè io preferisco 100 volte Casa Pound che il PD con Casa Monica. Vabbè, quello vabbè, d'accordo. Vabbè, in che senso? Il PD è con il sindaco che abbiamo sentito prima e con quello che gestiscono tutto Roma e il Lazio hanno fatto quello che hanno voluto lì con cioè meglio Casa Pound del PD. Ah, 100 volte, ma è meglio, guarda, è meglio andare a cena con quelli di Casa Pound che andare con quelli di Sel di Sodomia e Libertà. Com'è che si chiama Sel? Non ho capito. Sodomia e Libertà. No, come sodomiti. Come Sodomia e Libertà? Ci sono dei all'interno del Parlamento ci sono dei professionisti alcuni dell'inculo. Come dire? Come professionisti Solamente i matrimoni gay, hanno solamente le adozioni gay, parlano solo di quello. Cioè tu dici che altri problemi cioè, tu dici Sel sono i professionisti dell'inculo? No, non tutti, però beh, ho capito, ce ne sono diversi che sono dei professionisti dell'inculo. Cioè, hai chiamato sodomia e libertà, perché sodomia? Sodomia e libertà. Perché sodomia? Ma perché parlano solo di quelle cose, siccome poi si arrabbiano subito appena glielo dici, ma oggettivamente sono quello. Capisci che è il posto giusto per lui, quello lì. Cioè io non ho capito una cosa, meglio andare con quelli di Casa Pound che con sodomia e libertà, con quelli che tu sicuro? Chiami sodomia e libertà. Ma ci mancherebbe. Dici perché almeno non hai il pericolo, perché almeno lì non corri nessun pericolo. No, vabbè, io alcuni di stelle comunque della sinistra con cui vado molto d'accordo, non ci mancherebbe. Ce ne sono diversi che io quando ero deputato a Roma mi stupivo perché si alzavano e parlavano solo di cose che riguardavano i sodomiti. Quindi, i sodomiti, chi sono i sodomiti secondo te, scusa? Ma sono quelli che a cui piace, diciamo così. Ma anche a te piace determinate... però. Ma anche a te piace però. Ecco, scusami. No, guarda, lasciamo perdere, no. Ma anche a te piace perdere. E non con gli uomini, con le donne ti piacerà, no? Guarda, comunque faccio come Parenzo ieri, guarda. Cioè? Che fa? Non rispondo. Fermo lì, no, che tu non risponda mi sembra. Fermo. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico. Ma sono una boiata pazzesca. Traffico, no. Fate qualcosa, vi prego. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Cioè, la cosa incredibile di Parenzo è che questi qua, che è un piccolissimo partito politico di estrema destra, certo. La cosa incredibile mia. No, no, la cosa incredibile tua. Ci sono, aspetta, stai, ma lascia perdere, non ti attaccare al prefetto, ci sono. E poi il lascia perdere. Sono allora, curiosi, sono voi. Attese 3.000 persone, non so quante, vedremo poi se è vero o no. C'è una manifestazione democratica dove non succede nulla e tu, che sei quello, no, che in teoria le manifestazioni eccetera, vuoi proibire una manifestazione. Cioè, una cosa pazzesca. Ma dipende, se uno fa una manifestazione, ma che per cosa? Dire, ma questi qua negri, sono ma i non, negri a rogo, ma non, una ci sono le leggi per condannare le frasi contro i negri, contro gli immigrati. Appunto. Eccetera eccetera. Allora, se io questi... non autorizzo una manifestazione che incita, ma non è per quello, ma non è per, tra l'altro non è manco per quello che viene vietata la manifestazione, o comunque viene vietata per ordine pubblico. Vabbè, perché c'è la sinistra che rompe i coglioni, questo è il punto. Cioè, perché ci sono esponenti della sinistra dell'antifascismo militante 50 anni dopo che rompono il cazzo, questo è il punto fondamentale. Perché se stessero zitti non farebbero nemmeno pubblicità a questi di Casa Pound, che ricevono una pubblicità incredibile da questa vicenda. Questo per colpa vostra, per colpa vostra, per colpa vostra. No, nostra, io dico vostra, anche tua, prefetto, anche tua. Ma che prefetto, adesso attacchi al prefetto. E allora fate disobbedienza, allora, anche tu fai disobbedienza. Ma non me ne frega niente, umano. È una grande battaglia di libertà, no. Che parlino quelli di Casa Pound fin quando vogliono. We won't make it alone, but we allora can. La ragazza che ha fatto lo sgambetto al profugo in Ungheria, quella, la reporter, dice che aveva paura. Perché aveva paura di essere, diciamo, aggredita, no? Da chi? Perché c'era una fuga dei profughi. Sì, aveva paura di essere aggredita ed essere rimasta senza stipendio. Non ci credi tu a questa versione, dici? Ma non me ne, ma una, è una, è disumano quello che ha fatto. Non credi a questa schifoso. Versione che sia stato un ma raptus? Non credo minimamente. È l'unica. Quanti giornalisti ci sono lì a raccontare? Buonanno, tu cosa? Che pensi di quella là che ha fatto lo sgambetto? Ha fatto una grande stupidaggine. No, no, ha fatto una grande stupidaggine, anche perché quell'uomo aveva un bambino in braccio. Cioè, va bene, tra virgolette, tra adulti magari puoi anche fare delle cose sbagliate comunque, ma con un bambino in braccio non devi fare assolutamente nulla. La distinzione, se vuoi da l'adulto da solo, proprio che scappa. No, ho detto che almeno tra adulti, almeno tra adulti, anche se sbagliava, era tra adulti, ma con il bambino peggio ancora. Cioè, ma non esiste almeno guarda, tra adulti. Ma ormai Parenzo, avete perso, ho spiegato bene, tu come al solito vuoi mistificare la realtà come la fai con Casa Pound. Perché tu vuoi essere democratico, parli in difesa degli ebrei giustamente, parli in difesa di questo, di quest'altro giustamente, però quando hanno altre idee, altre persone, a quel dire? Punto diventi un cessore e diventi come re Roma. Ma io non ci sono cessore di nessuno, se un'idea tutti. È antidemocratica, certo. Ma che non è mica antidemocratica, certo, perché non c'è nessuna legge che vieta a Casa Pound di esistere. No, ma perché infatti, come ci sono quelli che amano la faccia e il martello, c'è una legge, un prefetto che siete contro il prefetto, benissimo. Ma che c'entra? Ma perché ti attacchi al prefetto? Sei veramente patetico quando ti attacchi al prefetto. Ma è una decisione dello Stato. Vabbè, vabbè, non è quel punto, non è il prefetto. Tu dovresti prendere e andare domani alla festa. Bravo, di Casa Pound. Così. Vieni ma non con me e ci andiamo insieme. Per vai domani alla festa di Casa Pound, vai. Ma fai un grande. Io a moglie al festival della comunicazione non ci penso manco per. Anzi, domani sono con Davigo e Colombo. Vabbè. Auguri, mamma mia che divertimento. A parlare di giustizia, di varie pulite. Senti, buon anno, io voglio capire una cosa. Ma Salvini ha detto che siccome ha un bilocale potrebbe è piccolo, però potrebbe ospitare un immigrato, un paio di immigrati. Tu lo ospiteresti a casa tua un immigrato, un profugo? E guarda, lui è un bilocale, io sono un monolocale, quindi sono già stato qualche peggio. Cioè, però no. Guarda, io sarei disposto ad aiutare una mamma, un bambino, sì. Però penso che le mamme e i bambini in Italia che hanno tanto bisogno ce ne sono una marea. Vabbè, lo ospiteresti a casa o no, profugo? No, di direttamente non di no. Sta, a casa mia non ci sta proprio. Non ci sta proprio, però se dovesse proprio ospitare qualcuno preferirei prima ospitare un italiano in difficoltà. Va bene, ti chiamo dopo perché voglio capire che hai fatto con quella storia della faccia della Merkel, perché ha fatto il giro dell'Europa, forse anche del mondo, un parlamentare europeo che si mette la maschera della Merkel. Fermi tutti. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Adriene! Adriene! Dove sei, Adriene? Lasciatemi in pace! Non mi frega niente del futuro a me! Adriene! Adriene! Ma se Rocky avesse avuto questa voce, il film avrebbe avuto lo stesso successo? Scopriamolo insieme. Voice Anatomy, il nuovo programma di Pino Insegno, io, da domenica 13 settembre alle ore 14.30 su Radio 24. Rifacciamola! Voce, Pino, voce! Andava bene così. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. La Zanzara. Tipo, ma sei fissato, devi farti curare, porta pazienza, dai, no. E io ti voglio bene, ma devi farti curare. Tu hai bisogno di uno psicoterapeuta, dammi testa, no? Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocracy. Ieri ho visto a un certo punto, durante la trasmissione di Porro Virus, il sindaco di Messina a Corinti, un signore sempre variopinto, che gira sempre, sta sempre in uno studio con la bandiera della pace dietro, per carità, un bravissimo sindaco sicuramente, non so cosa fa a Messina. Che cammina scalzo. Sì, signor a Corinti. E sì, dice forte, che ha dato, sì, vabbè, ognuno, cioè, un folcloristico, un personaggio folcloristico. Oltre ad aver detto di aver dato dei biglietti gratis per un concerto ai migranti, ai senza tetto e ai rom, vabbè, insomma, ha regalato dei biglietti ai rom, ai senza tetto e ai migranti. E chi se ne frega? Biglietti pagati da qualcuno, omaggio, non lo so. Dice che ha dato una casa ai rom, evidentemente una casa popolare, ai rom in deroga per una questione di giustizia. Cioè, ha fatto una deroga e ha dato la casa ai rom. Ho fatto una piccola cosa, io non vado mai a dare le case in deroga, ci sono delle graduatorie, però ho dato una casa proprio a una famiglia rom, proprio perché loro sono fuori da ogni protezione, e perciò se proprio una volta sono andato in deroga l'ho voluto fare apposta per una famiglia rom di 9 persone dove non hanno alcun santo in paradiso, e allora l'ho voluto dare proprio per un fatto di giustizia. A proposito di rom, di Casa Monica, polemiche eccetera eccetera, Sgarbi sostiene che quella non è mafia, non è mafia. 25 giorni che si è parlato per un'intera settimana del funerale mafioso dei Casamonica. La mafia è ombra, è qualcosa che agisce alle spalle. Un funerale come quello che avete visto mai sarebbe un funerale mafioso, perché un mafioso non si fa vedere, non si dichiara tale, non fa un funerale come tu lo vedi in un film. Questo è un film, è una caricatura. È evidente che puoi intervistare chiunque, hanno intervistato 1000 volte Fabrizio Corona, ognuno può essere al limite della criminalità, ma non è un mafioso. Non puoi chiamare mafia una cosa che non si chiama mafia. Occorre tornare a scuola e dare alle parole il loro senso. Allora, Gianluca Buonanno, che è praticamente un erede della tradizione sgarbiana, Parenzo, della tradizione politica sgarbiana, essendo stato scoperto secondo Sgarbi proprio da lui, non so in che periodo storico, l'altro giorno gli eredi, sai, come tutti gli eredi, no? Ma io mi ricordo una volta che sono andato con Vittorio Sgarbi a Tele Lombardia e c'erano le prime puntate proprio di David Parenzo. Pensate, cioè anche tu hai contribuito a portare Buonanno al Parlamento Europeo, Parenzo. Inutile che fai tanto adesso lo schizzo. No, all'epoca era 12-13 anni fa, credo, faceva il... Che faceva? Forse non era ancora sindaco. Era Missino, era Missino. No, sono sindaco dal 93, quindi. Figura, quindi era già sindaco e io invitai Sgarbi. Sei come Andropov. Sgarbi aveva la sua solita corte, no? E quindi mi disse, no, io vengo in studio, sì. Però ci sono anche tutte queste persone, cominciò a presentare 8-9 persone e c'era anche Buonanno. Ma guardi che ho invitato lei, professore. Dice, no, non mi frega niente, ci sarà, c'è anche. Ma com'era Buonanno? Com'era fisicamente all'epoca? Era alto o basso uguale, sì. E aveva appena fatto questo provvedimento di, credo, disegnare agli incroci delle strade dei morti. Bah, adesso chi se ne frega. Che cazzo dice? No? Ma che cazzo? No, mettevo i vigili finti. Vabbè, ma quella no, no, i vigili, ah, i vigili finti, roba vecchia. Io non capisco. La tradizione sgarbiana significa anche andare con la maschera della Merkel al Parlamento europeo. Ho visto quelle immagini, Parenzo, quelle immagini fantastiche, direi teatrali quasi. Teatrali. Ma sono delle immagini favolose. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Ma poi hai anche parlato? Ti hanno fatto parlare, Gianluca? Allora lì quando io sono andato a stringere ironicamente la mano a Juncker di fronte a tutto il Parlamento, no, perché non avevo il microfono, e Schulz ovviamente non mi ha dato la parola. Poi però successivamente in un altro intervento ho messo su la maglietta dove c'era scritto in inglese una cosa che riguardava la Merkel, cioè che secondo me la Merkel si sceglie anche le persone da portare in Germania. Come fa la Merkel? Come fa? Adesso ti dico come fa la Merkel, è la parodia della Merkel. Quindi ho messo sulla maschera e ho cominciato a dire: io, signor Presidente, sono Angela Adolfo Merkel e io scelgo i sì ariani, non siriani, i sì ariani perché mi servono come nuovi schiavi mentre do tutto il resto d'Europa e soprattutto a Italia i morti di fame, i clandestini e gli assassini. Questo è quello che vuole il Quarto Reich, e cioè che la Germania può prendere quello che vuole perché noi siamo al supermercato come abbiamo fatto con la Grecia, dove l'abbiamo sistemata e adesso gli abbiamo comprato gli aeroporti. Ora noi facciamo questo con i profughi, cioè noi vogliamo questi profughi che arrivano dalla Siria, e cioè sono i siriani perché sono dottori, sanno l'inglese, si comportano bene, capito? E si possono proprio cimentare come noi vogliamo tedeschi. Tutto il resto la strumenta, tutto il resto, i rifiuti, i clandestini e gli assassini, eppure i morti di fame, vanno in Italia. Non vogliamo nessun altro. E questo non te l'hanno fatto dire. Ho salutato anche alzando il braccino. Cioè, non che questo mi hanno pescato il piede. Che dici, Valenza? Scusate se interrompo il siparietto. Ricordo al milione e mezzo di ascoltatori della Zanzara e all'ottimo Cruciani che questo signore qui che stai chiamando, questo signore qua, lo paghiamo noi. Chiedo scusa. Intanto alla Mecca, adesso però dire una cosa. Aspetta, e dico veramente, ci costa 12.000 euro al mese italiani. Fammela dire. Allora, su 751 deputati di 28 nazioni, io sono al 22esimo posto per presenze in aula, per interventi, per interrogazioni e per mio lavoro, 22esimo su tutti. Uno potrebbe dire vai là per fare il cinema, per me va benissimo. No. Intanto sono presente e dopodiché dico però anche scusa, questo, mi aspetta. Quello che ha detto Parenzo, l'ha detto anche Schulz, questo lo paghiamo noi, no, perché questi stronzi, no, in generale dico, no, stronzi, burocrati stronzi, europei, gli stronzi, cioè, stai dicendo che Schulz è uno stronzo, diciamo la verità. No, in generale i burocrati, ma politicamente politicamente Schulz si comporta da stronzo con me. È uno stronzo, dai, dillo, è uno stronzo. Che dice che con la maschera sono più bello perché non deve toccare la Merkel, ma al di là di quello, lui dice questo lo paghiamo noi, ma si dimentica di dire che già solo loro, questi burocrati, solo per andare a Strasburgo ci costano 250 milioni all'anno. Ma una vecchia questa, questo per dire che lì ma si buttano la soldi tua alleata Le Pen, diglielo la tua amica Marine Le Pen. Scusate un attimo, scusa Gianluca, per chiudere la Mecca, una notizia, la Mecca, diamo ogni tanto una notizia, la Mecca, gru cede e si schianta sulla grande moschea, 62 morti. Mamma mia. Che effetto ti fa, buon anno? No, niente, l'11 settembre, se ricordo l'11 settembre 2001, mi vengono in mente i 5.000 morti fatti dal fondamentalismo islamico, veramente, a me mi dispiace per le persone che sono morte lì, ci mancherebbe, ma io pensare che l'Islam sempre di più andrà a annientarci, perché questo sarà, perché io la penso veramente come Tu dici i morti, 62 morti dalla grande moschea alla Mecca, che cazzo ci frega, dici, no, con tutto quello che hanno fatto? No, magari è tutta gente innocente, ci mancherebbe altro, io non voglio dire una cosa sui morti, però io gli islamici non li sopporto, nel senso che questi ci vogliono comandare, quindi se vengono da noi si devono comportare bene e non rompere i coglioni, se invece vengono qua e vogliono tutti i diritti e neanche un dovere, io non ne voglio manco uno, e questi ce l'hanno nella testa come i tedeschi, che pensano sempre di essere superiori, perché qui passano gli anni, i decenni, i secoli, ma quelli ce l'hanno in testa, sono sempre superiori. Vi ricordate quando quel pilota tedesco ha fatto ha messo l'aereo contro la vabbè, quello è impazzito, però che c'entra? Aspetta, Cosa ha detto però la compagnia tedesca il giorno dopo? Questo mi ha fatto inorridire. Ha detto, malgrado la tragedia, malgrado poi si è capito che questo qui era un malato mentale, stai dicendo? Ha detto, i migliori piloti ce l'hanno i tedeschi. Ma vaffanculo! Però scusate, ma tu stai dicendo se non ci fosse la Germania camperemmo meglio? Assicuro. Cioè, camperemmo tutti meglio. Cioè, senza la Germania, con l'annientamento della... Una cosa seria. Una cosa seria nel senso che la Germania, questi lavorano, si impegnano, si danno da fare, però hanno questo tarlo nel cervello che pensano sempre di essere superiori, che tutto va bene. Cioè, pensano di dominare, dai, hanno il tarlo del nazismo, dici. Ma te. Questo c'hanno la svastica nella testa. I tedeschi hanno la svastica nella testa. Bene, con questa dichiarazione di pace nei confronti della Germania, caro Parenzo, possiamo dire... possiamo salutare. Ma guarda che è proprio così, ce l'hanno nella testa, vabbè, ho capito. Essere superiori. Parenzo non reagisce, non risponde. Che ti devo fare? Cioè... Ho detto che no, stavo facendo finire di parlare lui per non sovrappormi. Ho detto che essendo venerdì possiamo smontare tranquillamente il tendone, tanto da martedì ritorna a Bruxelles. Questa persona è pagata da noi per fare soltanto nelle istituzioni europee. Ci ridono dietro tutti. Fermi tutti. Tutti. Ciao, sai che ci ride dietro? Chi? Sai che ci ride dietro? Chi? Dell'Italia che non combina un cazzo, che è un governo che non combina niente, dai, e che abbiamo pieni immigrati. Ma che andate a fanculo, Parenzo e tutti, ma vaffanculo! L'Italia non conta niente, svegliatevi! Bisogna fare la rivoluzione, usiamo il lanciafiamme, è ora di finirla! Basta! Ma lanciafiamme con chi? In senso metaforico, contro tutti quelli che rompono i coglioni, ora di finirla! L'Italia! Fermo. Fermo. Pubblicità. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Celebrare suo padre con la musica del Padrino significava identificarlo in un personaggio potentissimo ma negativo. Non è vero. No. Perché? Quello è Padrino, è un film. Papà mio lo piaceva quel film e lo piaceva anche la musica. E noi, quando lui è defunto, l'abbiamo fatto come lui è desiderata. Vabbè, pure a noi altri ci piace la musica di Via col Vento, perché però diciamo domani è un altro giorno nella politica. Il Padrino è il Padrino. Noi figli siamo stati contenti per fare questa cosa così, perché lui lo piace. Lui adesso delle su è contento, perché noi abbiamo fatto il funerale che piaceva a lui. A noi ci è venuto in mente perché l'avete chiamato voi papà. Perché era troppo buono. Era troppo buono, come Papa Francesco. Vabbè. Per voi è normale, hai conquistato Roma, sei re di Roma, ti vesti da papa, è normale. Ma quella è una giacca che compri normale? Vabbè, assomiglia, diciamo che assomiglia. Ah, assomiglia. E qual è Papa? E non è al Papa buono, al Papa Boitiva. Ognuno si sceglie il Papa suo poi, adesso. Ah, bravo. Quel manifesto là, sì. Non è il manifesto di un boss. Tra l'altro, guardi, vestito da simil Papa sopra San Pietro. Per incidere, e quello tu lo chiami un boss. Guarda che faccia che ma infatti bella, è una faccia bella, allegra, è buona, è un boss e allegro. Tu lo chiami boss, è un boss, lo chiami. Ma i boss sono cattivi, i boss mica sono tristi. Io c'ho il bagno che l'ho comprata a Via delle Capannelle, è bello, diciamo. Avevo comprato dei rubinetti modelle Cristine, me se sono rotte, l'ho levata e lo sono andata a comprare Leone Marrò, lo sono andato a comprare. Vabbè. Questa è la zanzara 800 24 0024 sulle note del Padrino. Che poi che problema c'è mandare. Cioè, tutti noi amiamo questa canzone, ma non siamo vicini alla mafia. Dunque, uno può tranquillamente mandare la musica a un funerale col Padrino. Io questa polemica pure hanno mandato la musica del Padrino. La musica del Padrino ormai prescinde dalla mafia, diciamo, no? Ma come? Ma è un simbolo, no? È come I simboli. Sì, a me fa impazzire questa cosa. Il simbolo. Se avessero suonato il ballo del qua qua, probabilmente nessuno si sarebbe stupito. Ma la musica del Padrino, no? Prescinde dalla questione della mafia, piace il ballo del qua qua è abbastanza innocuo. Casa Monica, che ballo è il ballo del qua qua? Ma hanno suonato la musica del Padrino evocando come dire, no, un clan, un ruolo, una cosa, non è una scelta cinematografica, mi pare. Però, Roberto da Roma, Roberto, vai. Ormai va tutto bene, quindi figurati. Vai. Pronto, sì, buonasera. Vai, dimmi, dimmi. A lei è... Allora, volevo portare... Volevo portare a... mi sento molto eco. No, io non sento nulla, sento benissimo. Vai Roberto, vai dritto, vai. D'accordo, volevo portare una mia, diciamo, esperienza di 4 anni fa dentro casa Pound. Io sono una persona omosessuale dichiarata, tranquillamente si vede proprio. In che senso si vede? Scusa, io stavo in mezzo alla strada. In che senso si vede? Sono stato un sento molto eco, scusate. No, però è colpa tua, non è colpa nostra. Noi sentiamo benissimo. Il problema è tuo che stai in mezzo alla strada con la gente intorno, amico mio. Vabbè, comunque tu sei omosessuale e si vede. In che senso si vede? Sì, si vede, si nota tranquillamente, quindi quando sono entrato dentro casa Town per quel mese, come si fa? Perché si nota? Non ho capito perché si nota che siamo sessuali. Si nota perché se mi metto a camminare si nota. E che sei? Che c'hai? Che camminata hai? Scusa. Ma è un po' papera. Ma ho capito, ma tutti quelli che... non è che tutti quelli che camminano a papera sono froci, scusami. Vabbè, comunque no, si vede. Si vede che sei omosessuale, va bene. Sei stato, sì. Sei passato davanti a casa Pound, non ho capito, che è successo? No, no, mi hanno portato a casa Pound perché in quel momento facevo la strada. Facevi? La strada, io vivevo in strada. Vivevi in strada, che facevi? Battevi, che facevi? No, no, no, vivevo in strada, mi sono trovato a dormire sulle panchine. Ma perché dormivi sulle panchine, amico mio? Vabbè, ma questo è un discorso un po' più ampio. Io sto parlando soltanto di una esperienza che io ho avuto. Vabbè, dormivi sulle panchine. Cioè, esatto, tu dici, io sono omosessuale, persona. Vivevo sulle panchine. Ti hanno portato, qualcuno ti ha raccattato da lì e ti ha portato a casa Paolo. Esatto. È un discorso surreale. Un'amica. Una storia incredibile. Comunque, un'amica ti ha... lo so, ma è vero. Che ti hanno portato a casa Paolo, e allora... Sì, ok, io sono stato un mese e mezzo lì, trattato benissimo. Cioè, ma loro fanno, loro fanno queste cose. No, ma lui sta raccontando un'esperienza, sta dicendo a questi di casa Pound aiutano anche delle persone, punto. Cioè, come lui che è sì, omosessuale. Esatto. Se vuoi le dico che c'è una cosa molto incongruente. Se vuoi gli spiego come è fatto tutto quanto casa Pound da piano fino a qua. No, spiegare i dettagli. Ma non è questo il problema. Questa è una cosa fantastica che c'è nella tromba delle scale. Che c'è? Che c'è un dipinto di Tamara Tlempica. Sì, lo so. C'è un... Vabbè, ma è tu... incredibile, forse. Ma tu sei di sinistra? Io sono stato veramente trattato con i guanti, trattato benissimo. Ma sei di sinistra? Ma non tu? Sono di destra, sono di sinistra, ovviamente, credo, no? Ma che ne so, hai incontrato qualche amichetto a casa Pound? Che ne so, magari hai incontrato. No, non facciamo queste lezioni stupide. Ma no, ma che ne so, sarebbe una cosa fantastica invece. Hai trovato un amore a casa Pound? Un ostello al primo piano. Un ostello, sì. Io non ho capito. Esatto, cioè. Ma secondo te, ci sono con l'acqua calda? Sì, sì. Certo. Ma secondo te ci sono omosessuali a casa Pound? No. Non ci sono omosessuali, No, ci sono persone con cui puoi parlare anche le tre di notte che fanno un servizio di segreteria lì. Ma tranquillamente, non vabbè, ma ci voleva raccontare anche un ci voleva raccontare la sua esperienza con casa Pound. Sì, va benissimo, non c'entra nulla con quello che è successo oggi. Ma quello che è successo che poi si vogliono fare quello che è successo è molto semplice. Grazie Roberto, è molto semplice. Lo riassumo per chi non lo sapesse. È un problema che riguarda solo la politica, alla gente che sta in macchina, i tassisti, i camionisti, gli imprenditori che stanno ascoltando, eccetera eccetera. Di questo argomento qui, del raduno di casa Pound in un posto nel Baresotto, non frega assolutamente nulla, però siccome ne parlano i siti, ne parla la politica eccetera eccetera, ne parliamo pure noi. Allora, la questione è molto semplice: ci sono dei signori i quali si dichiarano apertamente fascisti, e questo può essere un problema se qualcuno vuole, ma va benissimo, però ci sono le leggi per metterli fuori legge, scusate il gioco di parole. Finché questi qua rappresentano un partito che si presenta alle elezioni, un partito tra virgolette democratico, possono fare raduni. Chi impedisce questi raduni o un motivo serio, cioè siamo in presenza, che ne so, di un possibile pericolo per l'ordine pubblico, perché magari qualcuno quello è stato, fine. Ma sì, ma non è quello il punto, amico mio. Vabbè, d'accordo. Paolo da Padova, hanno tutto il diritto di manifestare dove cazzo gli pare, chiaro? Paolo, vai. Paolo, sì, mi allaccio, sono qua, buongiorno. Vai. Ma poi non ha capito, Parenzo, che gli fanno un favore. Quelli che sono contro casa Pound fanno un favore a casa Pound perché li fanno diventare vittime. Li fanno diventare vittime. Ma vittime di che cosa? Ma vittime di gente che non li vuole fare manifestare. Vittima di niente, si rispetta la legge. Arrivederci e grazie. Te sei attaccato al prefetto. Te sei attaccato al prefetto. Ma ti rendi conto come sei messo? Mi sono attaccato al rispetto dell'ostacolo. Sì, dello Stato, vabbè. Cioè, non si capisce perché, visto che casa Pound, tra l'altro, tra le sue attività sociali, ha anche quello di occupare delle case, no? Sì. non si capisce perché questi ti piacciono i centri sociali. No, no, no, a me non piace che occupino delle cose, sbagliatissimo, no, che quello occupino. Non si capisce, ma glielo dico in faccia, legalità, non ho problemi sempre, non ma è non ho, guarda che non ho problemi quando uno occupa uno stabile che non è suo. Pound, siccome benissimo, è stato, sbaglia, dovrebbe essere sociali, evacuati, questo va riconosciuto, dovrebbe, i proprietari di quel palazzo, se non è il comune, dovrebbero domani, il palazzo che non è occupato, loro fanno spesso occupazioni malissimo, sociali delle case. Malissimo, malissimo, Paolo, malissimo. Guarda, io non ho problema a parlare male di Casa Pound, perché non condivido quasi nulla di Casa Pound, ma hanno tutto il diritto di dire le loro cazzate, hanno tutto il sacrosanto diritto. No, e non c'è, no, perché tu glielo vuoi impedire, tu glielo vuoi impedire, tu glielo vuoi impedire. Quella adunata, perché io la chiamo adunata, quella adunata è stata giudicata dagli organi dello Stato, vabbè, e non si può fare, e non si fa. T'attacchi al prefetto per non dire che tu vorresti proibire i raduni di Casa Pound. Paolo, dai. Dai, su, ti attacchi al prefetto per non dire come la pensi, dai, sei veramente un codardo, Paolo. Ci sono alcune cose che non si possono fare. Sì, per legge. E sono denigrare la democrazia, le istituzioni, i valori, non si può fare propaganda razzista. E non si può usare la violenza. Sì, ma non è per questo che vengono impeduti, viene impedito a Casa Pound di fare un raduno a Milano, cioè non è per questo. Per questo ci sono le leggi, e dunque uno viene denunciato per questa roba qui, chiaro? 645 del 1950. Sì, vabbè, Paolo, adesso non me ne frega niente delle leggi, qui non stiamo alla facoltà di diritto, Paolo, no, cosa vuoi dire? Non ho capito che cosa vuoi dire. Io voglio dire solamente che il fascismo è già stato. E vabbè, sappiamo che dunque? Quindi finché un partito esprime la sua opinione, va bene, nel momento in cui persegue finalità che sono quelle che erano del partito nazionale fascista. Va bene. Ci sono gli organi dello Stato che possono sciogliere un partito domani mattina. Se non lo fanno, questo partito ha tutto il diritto di manifestare dove vuole le sue idee. Massimo allora da Roma, vai. Massimo da Roma, ciao Paolo. Non è mai successo in Massimo. Italia. Se non è successo, significa che nessuno minacciava la democrazia. Non Massimo. È mai successo. Massimo da Roma, ciao. Massimo, dimmi, dai. Massimo da Roma, ciao. Bello male, 40 minuti. Vai, Massimo, dì la tua. No, sì, vai. Oh, se non ti sta bene attaccami. No, me non so nemmeno che cosa devi dire, figuriamoci se. Lo so, ma ascolta, sto vai. Vai, ti sto dicendo vai. Buonasera, signor Cruciani. Buonasera. Buonasera, signor Parenzi. Vai. 3 mesi fa tentavo di darvi quella che è la mia definizione per la gente come voi, cioè dei giostrai, e mi avete scemato la telefonata. Ma non credo proprio, guarda. Non scemiamo allora ascolta, è il mio telefono rotto. Non scemiamo nessuna telefonata. Benissimo, è il mio il mio telefono rotto. Vabbè, ma adesso il problema non è la tua telefonata di non so quanti mesi fa. Quel discorso, un minuto me lo dai? Io ti do il tempo che reputo necessario, siccome tu fino adesso non hai parlato di nulla. Che sei un giostraio. Vabbè, sono un giostraio, vabbè. Ma non mi vergogno di essere definito giostraio. No, ma tu non sai manco che intendo io. Tu usi soltanto il cursore della regia per sovrapporti alle persone e usi dei disabili mentali, perché io ho sentito parlare di delle persone che purtroppo noi paghiamo. Io non l'ho sentito 20 minuti fa, che parla di lanciafiamme, tu glielo permetti. Senza dirgli, avendoci un microfono in mano, tu sei un coglione. Perché quella persona lì che parla di lanciafiamme, poi usa il sistema di Biscardi e di Emilio Fede, cioè dice, lo dico metaforicamente, Cruciato, tu lo sai bene che intende, lui insomma piena condanna. Perfetto, la gente che non lo sa, quella parola, uso lanciafiamme, è una parola pesante, tu sei peggio di un giostraio. Lo sai qual è la definizione per cui ti reputo un giostraio? Sì. E non mi dispiace per te, perché abbiamo fatto questa. Io mi chiamo Massimo Chiena, abbiamo fatto le scuole insieme, Cruciani. Vabbè, dai, Massimo, forza, vai al solito. Sì, Massimo Chiena. Non lo so, non mi ricordo, vai. No, ma mica è un problema. Guarda, che io non so né un politico né sono nello spettacolo e mi serve il cognome. 30 secondi. Sì, però io ti volevo insultare. La Zanzara. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda. Il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Qualcuno gli ha insegnato ai sinistroidi che per fare figli bisogna usare la patata e non quello di dietro? Guarda oltre i monti. Beh, questo, questo è da insegnare ai sinistroidi, no, Parenzo? Sì, no, questa è una dimostrazione in più di quando, che del fatto che bisogna chiudere quella, quel posto lì, quella radio, dai. Ancora un ascoltatore. Sali Padania. Messa così, sto bambino così, guardando bene la foto, a me mi sa tanto di bufala, che l'hanno hanno messo, non so se un manichino o qualcosa, fotografato, a me mi sa tanto di bufala. La libertà, il peggio di Radio Padania, rubrica strepitosa sulla Zanzara, ormai diventata quasi una rubrica di culto, richiestissima, eccetera. Ancora un ascoltatore, dai. Oh, vogliamo finire sta storia di tutti sti necroni che ci invadono? Tutti al macero, quella gentaglia lì, tutti al macero. Io non ho mai visto famiglie con bambini. Ho sempre visto dei gran negroni grossi e ben vestiti con le scarpe lucide. E il cervello, dove ce l'hanno il cervello i nostri italiani? Quanto è forte la tua voce, guida il popolo. Beh, questo qua è un genio, questo qua credo che si possa dare a questo anche il Nobel per la pace, direi, no? Cioè, altro... appunto, ma tu immagina se queste cose fossero ad esempio scritte su un giornale, su vabbè, un volantino. Maestro, non fare il moralino, attaccare il solito pippone. Questo ma è un ascoltatore è che interviene. È una constatazione a Radio Padania, e questa è la rubrica il peggio. No, ma dico, se quelle stesse cose fossero dette in un contesto diverso, che può essere la televisione, che allora... può essere un volantino o un giornale, ma avrebbero chiuso il giornale dopo due minuti, credo, ma giustamente. Fermo lì. Il peggio di Radio Padania prosegue ancora. Ne hanno un'altra esigenza, che è un'esigenza sessuale. E questa esigenza sessuale è stata posta in evidenza con l'omicidio, lo stupro di quella signora settantenne di Palermo. Per cui io inviterei, per soddisfare queste esigenze sessuali, che quella signora che dice gli immigranti sono l'avanguardia dello stile di vita di noi italiani, si rendesse disponibile per soddisfare questo diritto sessuale degli immigrati. Bah, questo è incredibile, è un attacco alla Boldrini pazzesco. Guardava. Parenzo non reagisce, Parenzo è muto, ma attonito, muto. Non vabbè. C'è da reagire, c'è da chiudere, questa roba qua è una roba inascoltabile. Ma è il peggio di Radio Padania, che ma viva, so, ma quello che io ti che dico, viva per sempre, di... che viva per sempre, fermo ancora, che viva per sempre. È la merda, stiamo scherzando veramente. Questi non si rendono conto che se qualcuno tocca i nostri figli di questa gente qua, non è che c'è tutta gente che li fa arrivare in tribunale, perché poi veramente qua scoppia una rivoluzione. Ma se a me mi toccano un mio caro, io non lo faccio arrivare in tribunale il Neretto. La tua terra. Se toccano mio figlio il Neretto, non lo faccio arrivare in tribunale. Tutti insieme. Della libertà. Era il peggio di Radio Padania. Gennaro dalla provincia di Napoli. Pronto? Vai, dimmi. Ma lo sai, Cruciano, che per parlare devo dire frasi, devo dire, devo sparare puttanate razziste, se no non ne passano a parlare. Ma non io dire stupidaggini, dai, no, forza. Come no, io adesso per prendere la linea ti ho dovuto dire commesso il filo spinato, da il filo spinato davanti a casa mia. Vabbè, vabbè. Ti volevo dire una cosa, Cruciano. Dimmi. Tra te e Radio Padania la differenza è poco. Sì, anche può essere. Alcuni ascoltatori sono uno specchio dell'Italia, dunque intervengono anche qua, non c'è dubbio. Ma una cosa, no, tu sei un fine osservatore. Io non sono tu affatto fine, non sono un osservatore. No, come no, sei un buon figlio di puttana, tu sai bene la appunto bicicletta. Tu sai bene la bicicletta. È un po' tu diverso, sai, però no? Da fine osservatore. No, va bene, chiedo scusa. Cioè, se mi dici fine osservatore mi offendo. Va bene, sono un grande figlio di puttana. Ah, quello sì, quello non mi offendo. Che sa giocare con tutto il rispetto con mia madre, naturalmente, per mia madre. Ovviamente, grande rispetto per tua madre. Grande signora, per carità, no, mia madre. Rispettabile, persona rispettabile, che mi ha messo al mondo quasi 49 anni fa, il 15 settembre. E ha creato un buon figlio di buona mamma, perché tu sì, però non mi dare del fine osservatore, sennò veramente mi incazzo, guarda. Va bene. Gennaro, ti prego. Va bene. Ma dimmi una cosa, tu sai che non c'è cosa peggiore arma che può ferire sono le televisioni, che possono creare consenso. Sì. In un clima come quello di Bruno Vespa che tu ci giochi, ma tu lo sai che visualità gli hai data a queste qui? Che queste quando si presentano per qualsiasi cosa la gente si mette paura, perché dicono sono andate da Vespa. Tu hai intervistato un nipote, Cruciane, tu sei uno fuono, queste cose non ho capito qual è il problema, cioè se uno l'intervista la gente pensa che sia uno scherzo, che pensa che sono scherzo, quando tu intervisti una famiglia mafiosa parte che non è scritto da nessuna parte che quei due siano mafiosi e, come no, a parte come per l'amor di Dio, Vox Popolo, Vox Dei, più potente. Vabbè, allora, delle leggi del tribunale, allora? E tu non gli devi dare visualità, non gli devo dare visualità, ma sì. Da che mondo si cerca di intervistare criminali, assassini, si fanno intere trasmissioni e intere palinsesti sui criminali, sui casi di cronaca, ma di che parliamo? Cercando gli assassini. Ma tu ti rendi conto che è quello che ha creato Gomorra? Tu ti rendi conto? Io vivo a Napoli, tu ti rendi conto che è quello che ha creato? Secondo me Gomorra non ha creato nessun guaio, te lo dico io, non ha creato nessun guaio. Anche questa cosa qui, l'accusa a Gomorra di avere creato dei tipi simpatici e però criminali, è un'accusa ridicola. Si tratta di fiction, si tratta di cinema, si tratta di televisione. Fermi tutti. Attento al DDT, sai? La Zanzara. Vaffanculo, parente, tutti, ma vaffanculo! L'Italia non conta niente, svegliatevi! Bisogna fare la rivoluzione, usiamo il lanciafiamme, è ora di finirla! Basta! Ma perché ha sbroccato Buonanno? Non ho capito, Parenzo, perché ha sbroccato? Perché è matto, perché ormai è una persona fuori controllo, qualunque, è talmente screditato che qualunque cosa dica non ha più, non ha valore proprio ormai, niente. Allora, mi riferiscono che Casa Pound, l'associazione partito di estrema destra, presente sì, regolarmente alle elezioni amministrative, politiche, eccetera, sì, eccetera, ha occupato il posto che è stato, diciamo, negato dal sindaco, sì, di questo paese. Vada la polizia a far applicare la legge e sgombrare tutto. E dal prefetto, sì, di Milano. Ci sono dei senatori, dei deputati, c'è l'amico Francesco Borgonovo di Libero, il quale ha detto che ci fa schifo il fatto che si sia creato un fronte comune per togliere la parola delle persone. Io sono d'accordo con lui. Detto questo, non so se sia una cosa positiva occupare un posto che è stato negato. Bisognerebbe invece magari occupare una piazza e fare casino lo stesso. Sicuramente è una follia avere vietato a questi signori di parlare e avere vietato senza un motivo valido quella struttura, a mio parere. Però forse occuparla poi si passa dalla parte del torto. Voglio dare un consiglio agli amici, ripeto, amici, come direi anche dei comunisti, agli amici di Casa Pound, perché qui è in gioco un problema molto semplice, che è quello della libertà. La libertà di esprimere, cosa, no, amico mio, la libertà va esercitata, la democrazia anche è una va cosa esercitata anche nei confronti che se di se avessero vinto i loro nonnini, adorati, ai quali si rifanno, non saremmo qui a fare zanzare, a difendere il loro pseudo diritto. Ma questa è la cosa razziste, che è questa la cosa che deve renderci questo più forti. Devi ricordare, noi siamo più forti di la democrazia. Vabbè, democrazia mica è fessa, mica è fessa. C'è un prete in provincia di Savona, riferiscono le cronache, un prete, il quale ha detto che piuttosto che ospitare dei profughi in parrocchia, darebbe fuoco alla parrocchia stessa. Piuttosto che ospitare i migranti, brucio la canonica, il parroco di Onzo, provincia di Savona. Il signore si chiama Don Angelo Chizzolini. Io lo chiamerei, che dici, Parenzo? Secondo me la mia previsione è questa, già l'ho fatto con altri giornali, con altri emittenti. Siccome ti dice che non è vero, perché è sempre questa la tecnica: uno dice una cazzata, spara una minchiata, dopodiché si rende conto di averla fatta grossa, siccome è pure un prete e Papa Bergoglio la pensa diversamente da lui, allora dice no, ma non ho detto questo, hanno riferito male, eccetera, eccetera. Pare che l'abbia detto anche durante un'omelia, ma secondo me se l'ha detto esprime anche un'opinione che è presente in molti cattolici, anche in molti preti, secondo me, che non sono allineati, che è contraria alla linea del suo superiore. Va bene, va benissimo, però uno deve avere anche il coraggio, non devi fare il codardo e poi non, diciamo, non il direttore generale della struttura lì, sì, l'amministratore delegato, lui è il Papa è l'amministratore delegato. L'amministratore delegato di quella cosa lì ha detto cose un po' diverse rispetto a quello che dice, diciamo. E vabbè, ma c'è il dissenso nella Chiesa, può esistere, no? Comunque proviamo a chiamare questo tizio, va, vi siete procurati il numero? Sì, chiamiamo, vai. Pronto? Don Angelo? Sì. Oh, buonasera, Don Angelo, sono Cruciani, salve. Guardi, non rilascio dichiarazioni. No, io sono molto contento invece di una cosa, Don Angelo, che finalmente c'è qualcuno come lei che dice come la pensa sui profughi, cioè che non ospiterebbe i profughi nella sua parrocchia e che addirittura, piuttosto che ospitare i migranti, brucierebbe la canonica. Questo non l'ho mai detto. Beh, così leggo, no? Lo riporta, credo, un Lo riportano. È sbagliato, lei, lei non ha mai detto una frase del genere? Non ho mai detto questa cosa qua, comunque... No, ripeto, però mi fa piacere che lei abbia il coraggio di dire una cosa anche diversa da quella che dice il Papa, cioè lei non ospiterebbe i profughi nella sua parrocchia? Non ho possibilità. E il Papa però dice una cosa diversa, cioè che bisogna ospitare i profughi in parrocchia. Non ho non so dove metterli. Non sa dove metterli, ma un posto si trova sempre, è così piccola sta parrocchia. Sì. Scusi, ma questa cosa qua di bruciare la canonica, no? Com'è che è venuta fuori? Ho già detto una volta che non rilascio dichiarazioni. Sì, d'accordo. Non so cosa non capite di italiano. No, io lo capisco molto bene, però siccome leggo piuttosto che dare la canonica ai migranti la brucio, beh, uno si chiede delle spiegazioni. I preti attaccano il telefono, capito? Cioè, pure i preti si permettono di attaccare il telefono. I preti dovrebbero stare al telefono e parlare con le anime, parlare con i parlare con il gregge. Ma io sono un figlio di puttana, però è un'altra cosa, questo non lo sa che ho capito, ma questo signore non lo sa che io sono figlio di puttana. Cioè, ah no, questo è vero. Stavo chiedendo delle spiegazioni a questo Don Angelo Chizzolini, il quale avrebbe detto che piuttosto che ospitare i migranti brucio la canonica. Ma io ripeto, magari gli do anche ragione, perché non mica bisogna essere allineati al buonismo di Papa Bergoglio. Uno dice, guarda, caro Papa Bergoglio, è inutile che dici che ogni parrocchia dovrebbe ospitare i migranti, io non ma ce la faccio. Buonismo? Io non capisco perché tutto viene tacciato per buonismo. Cioè, questo non Salvatore capisco. Da Agrigento. Oh, finalmente, buonasera. Dimmi. Ma tu non sei un'anima. Sì. Tu sei un pezzo di merda, ti spiego subito il perché. Oh, bello, benissimo. Sì, ti spiego subito il perché. Dimmi, Salvatore, dimmi. Una settimana fa. Sì. Tu parlando con non lo so chi era al telefono hai detto sì. Che a te non ti portava un cazzo queste tue testuali parole sì. E puoi andare a vedere la registrazione sentire. Che sentire, a te non sentire. Ti importa un cazzo dei profughi che muoiono e dei bambini che muoiono. Non è vero, non ho detto questo. Aspetta, ho detto venire. Che a tutti noi fammi venire, tutti fammi noi venire. Che no, no, fermo là. Fammi finire, hai detto una stupidaggine. Ma non perché, aspetta, vabbè. Non perché per loro, per umanità, attenzione. Perché noi cambiamo di questo, noi viviamo di questo. No, ho detto un'altra allora, cosa. Questo lo puoi pensare, non lo puoi dire, hai capito? Allora, fermo un attimo. Anche se tu... Vabbè, e non scusa, fammi parlare. Ma me lo fai dire o no quello che ho detto? Sarò l'interprete, cioè, originario e... Allora, che ho detto? Allora, ho detto... Io ho detto un'altra cosa, che molti vabbè, di noi... Dimmi. Che molti di noi... Che, come dire... No, si mettono la mano sul petto, che si emozionano, eccetera, eccetera. In realtà poi hanno, chi più chi meno... Sì. Utilizzano su queste vicende una grande dose di cinismo, soprattutto quelli che operano nel campo dell'informazione. Perfetto. Cioè non vedono l'ora che in realtà si realizzino grandi tragedie, così perfetto. È possibilità, c'è la possibilità di parlare, discutere, fare audience, eccetera, sono eccetera. D'accordo con cioè te. Io sono convinto che il funerale di Casa Monica abbia reso felice Parenzo, cioè abbia ascolta, ringraziato me non e acceso, e acceso io, un no, cero ascolta, a non so a chi a, che dici, a Rabbino tu lo puoi pensare, non lo puoi dire. Vabbè, che io invece, lo, io questo, invece hai lo capito? Dico, ma io non ho detto questo, non è... No, hai detto questo, vai a vedere. Vabbè, allora a sentire la registrazione. Andiamo avanti. E per questo ti ho detto pezzo di merda, perché non è giusto. Vabbè, puoi pensarlo, è normale che ci si campa su queste tragedie, lo sappiamo tutti, però non si può dire. Beh, non è che Luciani, ci si campa, non ognuno puoi fa il proprio dire. Lavoro, non è che ci si campa, che vuol no, dire che non si lo campa? Puoi dire, ma ascolta, passati una mano sulla coscienza. Vabbè, non Salvatore, hai già dire. Detto che sono un pezzo di merda, poi andiamo avanti. Vabbè, basta pure. Vabbè, Mauro da Milano, vai, Mauro. Ecco. Vabbè, che devi fare? Così, Mauro da Milano. Mauro? Pronto? Sì, dimmi, pronto? Caro. Dimmi, dimmi. Sì, ciao a tu. Ah, ciao a tutti. Ascolta, io volevo solamente parlare dell'intervento di buon anno e delle cose che avete fatto sentire sulla Lega. Per me queste persone qui io li chiamo il partito dei piccoli cervelli, perché non sono in grado di guardare al di là del proprio naso. Purtroppo in famiglia devo contare un parlamentare del partito dei piccoli cervelli nelle legislature degli anni 90. Mm. E, insomma, effettivamente ha ragione Parenzo quando dice che paghiamo queste persone per dire delle stupidaggini. In più volevo fare una piccola provocazione sì. Dicendo che ho una ricetta in salsa leghista per risolvere il problema della mala politica, della corruzione, della concussione, perché il vero problema dell'Italia che non riparte è questa classe politica che fa schifo e che non è in grado vabbè, di allora... risolvere i problemi. Io li ammazzerei tutti, a tutti i livelli, ecco. Dal primo all'ultimo. tutti gli amministratori pubblici, sì, con le ammazzeresti in che senso? Scusa, li ammazzerei fisicamente. Allora, Mauro da Milano è partito dicendo di avere sentito delle stronzate dalla Lega. Capito Parenzo? Ha detto, sì, beh, ho sentito come? Delle stronzate pazzesche, buon anno, non volevo vedere dove sarebbe arrivato, non ha capito, non è degno di fare il parlamentare, dice delle stronzate pazzesche, dopodiché ha concluso dicendo, beh, io alla fine tutti questi amministratori, tutti questi politici li ammazzerei tutti. In che senso, Mauro? Come li ammazzeresti, per esempio? Non lo so, adesso i sistemi ce ne sono tanti, io odio la violenza, quindi ho capito, ma come li ammazzi, però, come ammazzare qualcuno? Li ammazzerei tutti? No, no, aspetta, facciamo spiegare, li ammazzerei tutti. Non lo so, questa è una piccola provocazione, non so come li farei fuori. Ma non è una provocazione, ma come li faresti fuori? In che modo? Fisicamente. Sì, ma come? Non so, li appendiamo ai lampioni, non lo so, facciamo questo genere di cose qua. Sergio, fuori, sì, perché non funzionano. Non funzionano, facciamoli fuori. Sergio da Torino, vai, Sergio. Pronto? Dimmi, Sergio, dimmi. Oh, ben ritrovati. Noi ci siamo conosciuti su questa radio. Sono passate due settimane, amico mio, dai, vai, Sergio. No, dimmi. No, ci siamo sentiti mesi fa per Oliviero Toscani per parlare dell'odore del sesso femminile. Sì. E volevo ritornare su temi un po' più faceti. Sì. Ma in realtà lanciarvi uno spunto, una richiesta. Dimmi. A me fate impazzire, mi piacete da matti quando parlate di sesso, di MILF. Cruciani mi hai aperto gli occhi, ho scoperto degli orizzonti bellissimi. Però scherzi a parte, credo che vi sia, io sono uno di quelli d'accordo con te, Cruciani, quando non ti scandalizzi, non trovi nulla di speciale nella partecipazione di Casa Monica alla trasmissione di Vespa. E a me non sembra nulla di strano, non lo trovo uno scoop, mentre troverei uno scoop vero, e sono serio, come si faceva ai tempi di Berlusconi, ritornare a intervistare questi personaggi sulla loro vita sessuale. Cioè, bisognerebbe capire, io da ascoltatore sarei intrigato da sapere il potere supremo senza limiti di questi personaggi nella vita loro intima sessuale, come si è, quanto trombano i capi mafia, i capi clan, chiamateli come volete. Questo è un tema interessantissimo, come no, certo, è un tema fantastico, dovreste trattare questo, sarebbe un taglio è chiaro che bisognerebbe, noi potremmo fare delle interviste ai Casa Monica sulla loro vita sessuale, cioè che vita sessuale hanno i Casa Monica, secondo te quella signora là è vera Casa Monica, Parenzo, ha una sua vita sessuale, ma chi se ne frega, ma anche quando è una delle ultime, non però vedi, mai Sergio ha interesse per questa cosa qui, cioè i Casa Monica quali sono le relazioni sociali che hanno, cosa fanno a casa la sera? No? Ecco, no, ma questo è già diverso. Cosa fanno? Come dire. Vabbè. Alcune cose le abbiamo viste. Sergio, tu cosa vorresti? Sergio, cosa vorresti sapere tu di Vera Casamonica, la figlia di Vittorio Casamonica? Permetto di ricordarci quanto eravamo tutti scatenati, voi a raccontarcelo e noi ad ascoltare le avventure di Berlusconi. Era un momento bellissimo. Vabbè, diciamo che Berlusconi ci aiutava anche. Ma è un po' diverso, però. Ma vuoi che questi qui non siano ancora più scatenati di Berlusconi? Cioè, io voglio sapere, questo lo chiamano il Papa, l'altro il Papi non è così distante. Fermo là. Beh, non ha tutti i torti. Ma tu non sei un'anima, tu sei un pezzo di merda. La Zanzara. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. L'abbiamo mangiato ieri, oggi Pupo compie 60 anni. Ah già. E ieri, qui alla Zanzara, ha raccontato praticamente tutta la sua vita sessuale e non solo. Non vado con le ragazzine, non vado più con le ragazzine, vado con le mie due signore che sono in equilibrio perfetto con me. Come ti dicevo prima, io sono un uomo, ormai, voi non ci crederete, ma che ha trovato un equilibrio. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Non ne parliamo mai di sesso noi, perché in tre mai perché non sarebbe una cosa che mi farebbe schifo, ma non perché mi fa schifo l'orgia, che mi piacerebbe anche, ma non con loro due. Sono molti modi per essere soddisfatti sessualmente, non c'è solamente il gesto, quello istintivo, un po' noioso della penetrazione, che ormai è abbastanza fuori uso, ecco. Ma perché è un po' una cosa di una tristezza unica. Tra cunnilingus e penetrazione non c'è paragone? No, ma per carità, ma siamo proprio in un altro mondo. Ma sì, e tra depilata e pelosa cosa scegli? Ma assolutamente la seconda. Cioccolato dolce, un po' salato, tu gelato al cioccolato. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. La zanzara. Pronto, Cruciani? Chi è? Buonasera, sono Francesco. No, ah, però Francesco. Pure qua, Parenzo, pure qua, chiama il papà. Sì, beh, questo sì. È clamoroso. Ma chiama dappertutto. Non ma sarà, non è manco uno scoop, che vuole? Mi hanno detto, Cruciani, sì. Che domenica sulla radio 24, sulla sì. Vostra radio, sì, ci sarà una grossa novità. Che novità c'è domenica? Se domenica c'è Lazio Udinese, no, che succede no, domenica? Una cosa più importante. Che succede domenica? Particolarmente a cuore una trasmissione sulle voci. È un grande uomo di spettacolo. Ma non è possibile, ma il Papa chiama per qualsiasi cosa ormai. Chissà se questo uomo imita anche me. Ma io non credo, ma lei ormai ha imitato. Perché non bisogna credere, Scusi. Lo invito a Santa Marta a un'audizione. Cioè, lei sta invitando uno che non so manco adesso, non mi ricordo no, perché io non come, seguo. Come si chiama? Si chiama che ne so io. Non lo so, insegno. Ah sì, farà una trasmissione su Radio 24. Insegna qualche cosa. Lei no, non so se insegna qualche no, cosa. Forse anche se è un attore, insegnerà anche teatro. È bravissimo, teatro. Mi piace. Ah, a lei piace insegno. Lei conosce Pino Insegno? Sì, sì, mi piace, ho sentito. Che ha sentito? È molto bravo. È un buon credente? Non lo so se è un buon credente, non lo so, ma a lei che gli frega ormai, tanto lei invita tutti, lesbiche, transessuali. Non invito tutti. Vabbè, allora che cosa dobbiamo dire al signor Insegno? Che lei è invitato ufficialmente? È invitato ufficialmente a Santa Marta. A Santa Marta, sì. A Santa Marta e ascolterò la domenica Radio 24 per sentire la sua nuova trasmissione. A che ora è, lo sa però signor Papa, se non lo sa nemmeno deve dire Monsignor Franchi, mi deve dire l'orario. No, allora glielo dico io. È prima di tutti i convocati sport. Sì, di tutti i convocati che lei weekend. Che lei segue pure lo sport. Scusi. Sì, sempre il San Lorenzo. Ma lei dovrebbe seguire Radio Vaticana, al massimo no, la Rai. No, lei segue Radio 24. Maria. A Radio me Maria. Interessa perché danno risultato, Pardo da sempre il risultato del San Lorenzo. Ma non è vero, non dà sì, risultato. Vero. Dà risultato del San Lorenzo, la sua assolutamente, squadra. Lei Cruciani vabbè, non è Pardo. Pratico di questo. No, la domenica la radio la seguo poco. Comunque le voglio dire che questa trasmissione, sì. Caro Francesco, si chiama Voice Anatomy. Viaggio nei mondi della voce e inizia alle 14:30. Dunque lei fa in tempo perché c'è l'omelia della domenica, sì, no? Sì, sì, giusto? Sì, esattamente. Lei Cruciani segue tutte le mie omelie. Beh, un po' così, insomma, distrattamente, beh, distrattamente. In questo caso mi fa piacere. Ah, no, non si sbagli sempre con caso o cazzo, perché una cosa non è bella. No, è stato un lapsus, ma vorrei sentire Pino Insegno. Non c'è ancora, adesso lo chiamiamo. Non c'è. Perché c'ha questa voce. Se vuole io lo chiamiamo, però aspetti un attimo, aspetti un secondo. Mi piacerebbe salutare. Aspetti, prendiamo il numero, aspetta. Fatemi il numero, dai. Pino! Che questa sera farò una cosa importante, visto che c'è il mio collega lì. Salve. Ma che era un tentativo di Ratzinger era un tentativo di Ratzinger. Il Papa se n'è andato naturalmente. No, io sono qua. Ah, è qua il Papa. Sono qua. Ma che voce ha il Papa? Dato Insegno, ma che piacere. Ma no, come che piacere? Si è emozionato lei, scusi Papa. Sì, mi sono emozionato perché ha questa voce profonda e voglio sentirlo di domenica. Ma che voce profonda? Ma non è vero, cioè fa tante voci. Vabbè Papa, adesso non possiamo, per carità, lei non può stare sempre al telefono con la gente normale. Vada a trovare a Santa Marta. Vabbè, verrà sicuramente. Arrivederci. Il Signore la benedica. Sì, adesso ci lasci da soli, per favore. Lei telefona a troppa gente. Faccia il suo mestiere di Papa e non ci puoi trattare così il Papa. Lo so, hai ragione, Pino. Però scusami, io non ho capito una cosa. Allora, ciao, innanzitutto. Buonasera. Sì, buonasera. Ciao, sì. Buonasera. Conosci il signor Insegno, Parenzo? Pino. Parenzo, se lo conosci? Conosci? Sì, scusate, se conosco Pino, abbiamo fatto l'elementare insieme praticamente. Ci conosciamo da sempre. Ma non di cazzate. Tu avevi già un inizio di prostatite quando io facevo elementari, Parenzo. Io e Pino Insegno abbiamo una cosa in comune, che siamo grandi tifosi della Lazio e non lo diciamo mai, in realtà lo diciamo sì, ormai bisogna dirlo, Cruciani, perché viviamo in una società multilaziale, per cui è giusto accettarci tranquillamente come... No, perché essere laziali a Roma è come essere neri durante Via Colpenti in Alabama. No, una volta diceva, si diceva un'altra cosa, è come essere indiani in un western contro Wayne. Esatto, sì, una sorta però, di riserva indiana, però vabbè, chi se ne frega, a noi piace così. Sai, sì, c'è pure un assessore della Juventus adesso che canta Roma merda, che dice che cantava Roma merda. Scusa, ti è piaciuto però, ti ha fatto godere un po'. No, ma sai, uno conto pensarla al bar con gli amici, un conto dirle chiaramente le cose, bisogna essere anche un po' eleganti, no? E vabbè, quello sai, anche il nostro mestiere, siamo qua. Fammi sfogare, ma che fa, scusami, fammi dire due o tre parolacce. No, sì, parolacce no. Ma voglio sapere, ma che fa Pino nella radio? Innanzitutto, t'hanno dato i soldi questi di Confindustria o no? Questo no, dire. Ancora no, vogliono vedere come va prima, poi parliamo. Cioè, ma voglio dire, nel contratto ci sarà qualche cosa oppure vorrebbero che lo facessi gratis? Perché sai, questi qua non con i soldi... No, devo dirci, è stata una contrattazione, non si diventa ricchi, non si paga il mutuo. Ah, ecco, però, appunto, diciamolo, non pagherà il mutuo. Non pagherò il mutuo. Però la radio è la cosa più bella del mondo. Lo so, questa è bella. È la cosa più evocativa del mondo. Ma quando l'hai fatta? L'hai fatta qualche volta tu? Sì, a volte. Sì, io ho cominciato proprio con la radio e il doppiaggio. Doppiavo i film porno all'inizio, 35 anni. No, ma veramente stai dicendo che doppiavi i film porno? Sì, io ho cominciato, l'ho raccontato anche. Non mi ricordo questa cosa. Show. No, io comincio così perché 35 anni fa il doppiaggio era l'appannaggio di poche persone, che erano quelli della CD, ed era un film. Sì. E dall'altra parte c'erano i film porno che uscivano al cinema. E chi facevi tu? Chi facevi? Io ho fatto anche Joe Moss. Io, guarda, c'è un film meraviglioso, un titolo straordinario che io ho doppiato, lo sto cercando, perché è vero che dopo doppiavo 206 protagonisti, per vantarmi un po'. Però quel titolo si intitolava, pensa Cruciani, era dentro una gioielleria e si intitolava Eiaculazione da Tiffany. Ragazzi, siamo veramente al top assoluto. Cioè, che livello... titoli che facevano, ma nemmeno oggi, no, oggi sono tutti uguali i titoli dei film, no? È vero? Ma stanno, adesso vai sulle pillole da un minuto e mezzo sui vari siti, quelli che fanno diventare ciechi, per cui no, ma scusa, porno... no, ma oggi i film, non i porno, anche gli altri film hanno tutti dei nomi stupidi perché cercano invece una volta c'era anche dell'arte nell'inventare un titolo, Eiaculazione da Tiffany, bellissimo. Questa è l'invenzione, secondo me è il più bello. Scusa, anche però in 20 com'era l'altro che hai detto? No, adesso? Ma scusa, Apocalypse Now. A Porcalypse Now? Porcalypse Now, com'era? Beh, a Porcalypse Now, sì, quello anche. Parenzo, che dici? Che dici? No, dico, scusate l'ignoranza, non riesco a capire come si possa doppiare un film porno, visto che i dialoghi sono piuttosto scontati. I dialoghi sono sospiri e non riesco a capire. Parenzo, non è abituato, scusami, è un po' da questo punto. Non riesco a capire cosa uno debba doppiare a questo punto. Prima, Parenzo, ti spiego, i film porno avevano una similtrama, cioè uno andava dal dottore, c'era prima una visita leggera e poi si cominciava l'arte dell'approfondimento fisico. Sì, sì. Ma sì, c'era molto A, H e O, ovviamente, eccetera. E ti posso garantire che si entrava in un circuito dove venivi anche, perché vai in iperventilazione del cervello, se tu ansimi a vuoto... Ma tu ansimavi pure? Ansimavi pure? Sì, ansima, è per forza. Devi seguire tutto. Vengo così. vengo e di telefono appena arrivi. Ma dove vai? Qual era l'espressione più abusata quando facevi il doppiatore? Era... Ti piace? Ti piace? Dimmelo che ti piace. No, era così. Ma una cosa. Poi uno dice. Scusa, poi uno dice. No, poi uno dice. Aspetta, aspetta. Sommessamente ricordare. A insegna che è sempre la radio di Confindustria. Però lo sapevi. No, giusto per non farti cacciare subito dopo una puntata. Sì, cioè, non è questo poi punto. Poi sono ovviamente, ringraziando Dio, negli anni '80 sono arrivate le prime. Povera, le prime allora uno dice c'è la lobby, certo, poi hai fatto tantissime altre cose, però allora uno dice c'è la lobby dei doppiatori, sì, è vero, probabilmente c'è una lobby, però poi uno alla fine deve essere bravo, avete sentito prima, io non lo saprei fare perché non è il mio mestiere, anche a fare la voce di uno che gode in un film porno bisogna essere non bravi. È facile, infatti a me non mi fregano le donne, so io che posso bleffare un orgasmo, ma Senti, no, ma non è tanto quello, è che devi essere un attore che conosce perfettamente lo strumento, ed è quello di cui parleremo anche nella trasmissione a parte a proposito, la trasmissione. Devi essere bravo. La trasmissione, ma non è, comincia subito con Rocco Siffredi, sarebbe stupendo. Rocco analizzare la voce di Rocco Siffredi, bellissimo, ti do un'idea fantastica. Analizza la voce di Siffredi, no, ma la voce vera. La voce, il timbro, sì, vanno analizzate altre cose con metro, ma non è quello. È che adesso non si doppia più. Prima andavi al cinema e volevi sentirlo il doppiaggio italiano, adesso te ne fregano, giustamente. Infatti, l'industria è un po' calata. Da quel punto di vista anche l'industria del porno, oltre che andava, lo so, io ma quando mi hanno detto, ma ho saputo che sentivo una volta che ho detto che hai fatto dei porno, se faccio dei porno io fisicamente ero un caratterista, ero comico pure. Senti, lì, ma tu che sei romano, questo Marino lo vorresti cacciare o no, a pedate nel sedere, oppure lo vedi, ecco, Marino, la sagra c'è dell'uva. Non riesco a definirlo, né vocalmente non lo so proprio, che non ho mai sentito parlare, ma quello forse, ma come non hai mai sentito parlare? Ah, perché no, non ci ho fatto caso, cioè, non ci ho perché fatto, perché non ti interessa te dei siti, la politica, no, la discussione. No, mi interesso di politica e mi piace pure, sì, tanto, soltanto che sei di sinistra o sei renziano o no? Ma guarda, a me Renzi non è mai dispiaciuto dall'inizio, questo non essere renziano, no, e analizzando anche la sua voce da bambino, che è funzionale, quello per dirti, non serve una bella voce profonda, serve una voce che dia verità. Tu per esempio Cruciani o Parenzo siete perfetti, se tu fossi impostato, tu pensi a una trasmissione fatta da te dicendo signore, buonasera, e che cavolo, sì, la sporcizia della voce, che non è proprio una cosa da doppiatori, funziona, guarda Amendola, può funzionare, Amendola, sì, il successo di Ferruccio Amendola è che lui prima faceva Uomo 2, Dottore 3, Cowboy 4, sì, come è nato l'antieroe americano, come sozzo di Dustin Hoffman, Uomo da marciapiede, il De Niro, eccetera, e Amendola è uscito fuori e ha cominciato a essere, per esempio, sporco. Dicono che Parenzo abbia una voce da omosessuale. No, forse un po' checca, no, un po' checca. No, acuta. Sì, un po' checca, acuta. Però non so perché ha avuto poco testosterone durante l'adolescenza. Quello dipende da quello, il testosterone durante l'adolescenza provoca. È una voce un po' pipi di questa che batti becca, sì, così. Questo sì, certo. È una voce un po' così pigolante, diciamo, tu pigolante. Puoi abbassarla, la voce si può impostare, è uno strumento. Sai che possiamo fare in una delle puntate che farai? Facciamo un test sulle nostre voci, inventiamoci qualcosa, dai. Quello assolutamente. Sempre sette danni sordi, sempre sette danni sordi. Perché sì, no, quello te lo faccio sapere alla scadenza del bonifici, controlla bene i bonifici. Comunque tanto, tutte le domeniche dalle ore 14:30 trascorre un pomeriggio diverso con Pino Insegno. No, io mi vedo il calcio. Gli altri devono. Io mi vedo il calcio. Scusa, Radio poi 24. Anche perché c'è il podcast, come sempre. No, io non ho capito di Marino se lo vuoi cacciare o no. Tu sei romano, te dà fastidio sto sindaco o no? Non piace tanto, non ti piace tanto sto Marino, no. Non ti piace, no. Invece la cosa di Casa Monica, non trovi una cosa teatrale bellissima? Il funerale di Casa Monica, non lo vorresti morre, anche tu un funerale così domani? Funerale così. Il più tardi possibile, per carità. Ma bello un funerale, no, con Cruciani, un funerale così con i cavalli, cioè vedi Cruciani dentro una carrozza come Biancani, come, no, io non lo voglio così, io voglio un funerale un posto isolatissimo in montagna. Io non mi voglio neanche cremà, guarda, ma voglio cioccolato, perché proprio non mi piace proprio l'idea. A me cioccolatemi e poi sniffatemi, fate delle cose. Va bene Pino, ritorna, ciao, sì, a presto, ritorna stasera, è bello, salutami bene, cavolo, dai, E come ti devo salutare? T'abbraccio, no, come ti devi salutare? Fai Roma merda, fai un corretto, è Roma merda. No, sapono, noi siamo superiori a queste cose. Lo so, è vero, anch'io non lo farei mai. Pino Insegno, dai, presto, domenica 14:30, ogni domenica, sempre se te pagano, controlli i bonifici, no. Controlla, ciao. Ciao Cruciani, grazie, presto, ciao. Grande, ciao. Si è lodato Gesù Cristo. La Zanzara. Più. Che spettacolo sei tu, la più bella fra le donne, con quell'aria un po' intrigante, quel sapore sulla pelle che ti piglia e ti confonde, come fossi più rovente di una lama di un pendente, ma di te cosa vorrei, sotto in fondo già lo sai, quel calore che ti abbaglia, che ti spacca e ti sconfiggia, fatto solo per chi vuole, dentro l'anima il piacere, della vita e dei colori e del gusto dei sapori. Ti prego amore dai, ti prego amore dai, vuoi. L'opera massima di Vittorino Casamonica. E dopo capirai, tu dammi il peperoncino. Beh. Ragazzi, questo è un capolavoro, eh? No, ma non capisco. Cioè, ma perché zagaglia? Cioè, in Casa Monica passano dalla Zagaglia? Passano Falpetta. Dall'estorsione, cioè dico la grande famiglia Casa Monica, chi si chiama sì. Casa Monica, può passare tranquillamente dall'estorsione. Sì, alle minacce. Peperoncino. Un grande ritratto rom, un grande ritratto in parte anche italiano. Sì, cioè, sì, vabbè, sì. Quello che è Sinti Rom. Ma dai. Non è uguale. Vabbè, non sarà uguale, vuoi fare il precisino, va benissimo. No, sono abruzzesi loro, di origine. Ragazzi, io farò diventare questa sigla non solo un grande successo, questa canzone, ma anche, credo, un tormentone della Zanzara. Mi saranno grati l'eterno, signor. Un orgasmo, ho sentito la parola orgasmo, mi sembra, signor Vittorino Casamonica. A proposito dell'orgasmo, c'è un giornale britannico, che, se non sbaglio, sì, che ha pubblicato 21 cose che non sapete sull'eiaculazione maschile. Vuoi che te ne elenco qualcuna, Parenzo? Sì, ma sai che girava oggi in internet, mi sa, questa mia allora, l'orgasmo, l'orgasmo dura dai 5 ai 22 secondi e a volte non coincide con l'eiaculazione. Infatti il peperoncino, come sai, è considerato... È afrodisiaco, certo. Afrodisiaco, certo. Sì, sì, certo. Io questa non lo sapevo, i cornflakes Kellogg's furono inventati per impedire ai ragazzi di masturbarsi. Secondo me non è vero questa cosa. Ma non lo so, è questo giornale inglese. I cornflakes della Kellogg's furono inventati per impedire ai ragazzi di masturbarsi. Il dottor Kellogg, infatti, strenuo sostenitore dei benefici dell'astinenza, pensava che i cibi ricchi aumentassero il desiderio sessuale, mentre quelli insipidi lo diminuissero. Cioè, perché allora i cornflakes insipidi diminuivano il... Però è vero che l'orgasmo maschile non coincide sempre con l'eiaculazione. No, ma questo credo anche per la donna, credo mai. Questo, beh, no? Sì, certo, quello che c'è. Quindi, insomma, non sì. Fare osservazioni banali però su queste cose di cui non sei professore associato. No, almeno, non sono professore in cattedra, effettivamente. Però non mi pare una grandissima scoperta questa rivelazione del giornale, del tabloid inglese. No, il 40%, sì, alcune cose sono molto ovvie, non sono le grandi inchieste. Cioè, nostre. Non mi stai rivelando una cosa. No, non sono le grandi inchieste della Zanzara, no, effettivamente, ecco, no. Il 40% dice di masturbarsi tutti i giorni, mentre vabbè, il resto almeno 12 volte al mese. Ma io molto più di 12 volte al mese, devo dire la verità. 12 cioè, volte al mese? Beh, sì, molte di più. Sì, sì, no, molte di più, no, ma sicuramente mi masturbo. A 50 più. Anni? Ma sicuramente più di 12 volte al mese, non c'è dubbio. Ma dipende se poi uno finisce o non finisce, poi lì, Bisogna vedere se poi la cosa è portata fino alle estreme conseguenze oppure no. C'è sempre squinzi all'ascolto, dici? A quest'ora? Non lo so, le estreme conseguenze non sono quelle della manovra fiscale. No, vorrei capire se c'è sempre, è sempre all'ascolto squinzi, secondo te, a quest'ora. No, è già lui tra le 19.45 e le 20.30, quello è il momento critico. Appunto, dico. Ah, tu dici che no, dopo che dopo è già. No, già... no, dopo, perché ha già cambiato stazione, perché penso di aver sbagliato, capito? Quindi è già sintonizzato da un'altra parte. Su Radio Popolare che a sì, quest'ora no, che parlano di politica, Radio Radicale, dice ecco la mia sì, radio, appunto, ecco la mia appunto. Radio. Radio Radicale in realtà. Siamo ad alti livelli qua, eh? Allora, andiamo con Daniel da Milano. Daniel, un nome straniero da Milano. Daniel. No. O Daniele o Daniello? Hanno scritto male no, oppure no, Daniele? Daniel, alla francese. Alla francese, alla François. Sì. Allora, io vi ascolto spesso, però ho una cosa da dire a te. Dimmi, cara, dimmi. Che bella voce che hai, innanzitutto. Grazie. Mi piace la voce francese molto. La voce da fumatrice, secondo me. Fumo un pacchetto al giorno. Vedi? Come vedi. Cazzo hai sì. fatto? Sei impazzito? Non lo so. Lo so perché conosco le voci da fumatori. Sono voci sono fumatrice. Molto... Sono fumatrice. Oh, Parenzo, è tornato il divino Telma in Italia, eh? È rientrato oggi in Italia. Ah, gioia e pace. Tutto. Noi. Gioia e pace tutto. Per gli uomini di buona volontà. Comunicato che è rientrato in Italia. La cancelleria privata, attenzione. Dove stavo in vacanza? No, in India, come al solito, credo. In India. In India, ho capito. Daniele, dimmi allora, cara. Dimmi. No, volevo dirti questo, Cruciani. Io sono di religione ebraica. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Pound, io già ne ho uno qua, figuriamoci. Ah, e Casa Pound non può andare in giro a dire quello che gli pare. Vabbè, questa tu sei in conflitto di interesse, però. No. Non può. davvero non può. Vabbè, cioè, ma se dicono delle cose, scusa Daniele, la responsabilità non è collettiva. Se qualcuno di casa fa la responsabilità, cioè amore, mi piace che mi chiami tesoro. Però dico una cosa, la responsabilità non è collettiva. Se qualcuno di casa Pound o anche non di casa Pound dice una stronzata, ci sono le leggi per perseguirlo, punto e basta. Se un movimento politico è contro la legge, vuole la sovversione dello Stato democratico, beh, ci sono le leggi per chiudere questo movimento. È vero, come dice Parenzo, che in Italia nessuno l'ha mai fatto, ma secondo me benissimo. Io per esempio sono uno di quelli che sostiene che il signor Irving, sostenitore per esempio della inesistenza dell'olocausto, più o meno, adesso ovviamente volgarizzo la produzione scientifica del signor Irving, vada fatto parlare liberamente in tutti i consessi possibili o ovunque l'invitano, per cui da questo punto di vista sono cose che ho sempre sostenuto. Non riesco a vederla così, io ti rispetto, però amiga mia, io la penso in maniera diversa. Io credo che la nostra democrazia è più forte se i signori di casa Pound vengono ignorati. Da un certo punto di vista vengono ignorati, vengono contestati democraticamente, ma impedire un raduno, a meno che non sia un raduno pericoloso, diciamo, pericoloso, certo, è sbagliato, perché lì però c'è stata anche una mezza truffa, scusami. Perché hanno chiesto l'autorizzazione come un'associazione sportiva. Adesso però ragazzi sappiamo la versione del sindaco e del prefetto, la versione di questi qua sarà diversa. Insomma, al di là dei dettagli, la questione è molto semplice: è giusto o no che alcune persone possano fare un raduno, un partito politico che si presenta alle elezioni possa fare un raduno dove invita il signor Feltri, il signor Buonanno, la signora Comi, eccetera eccetera, e si possa parlare di politica? Sì o no? Se uno sostiene il contrario, secondo me, al di là delle decisioni del prefetto, del sindaco eccetera, se uno sostiene il contrario è un antidemocratico, e questo è il punto, dai Gianni. Ma non è vero. Ma non come è no vero. Uno allora deve essere coerente e dire che questi qua sono dei criminali che vanno sciolti, punto e basta, dai. Marco da Perugia, ciao Daniele, ti adoro, eh. Ciao Marco dimmi. Ciao Cruciani, ciao. Dimmi Senti, io capisco che tu devi fare il provocatore, però su questa cosa di Casa Monica ho voluto intervenire. Perché devo fare il provocatore? Io ho detto le cose che penso anche su Casa Monica. No. Non è che ho detto Casa Monica o Casa Pound? Questo è bello, però. Casa Monica o Casa Pound? Perché sono due case diverse. Casa Monica, Casa Monica. Ah, Casa Monica, non Casa Pound. Casa di Monica. Ho detto Casa Pound. Ma no, dai, scherzavamo, Marco, su, dai. Scherzavamo questa volta. Senti, no, quindi io in due parole, due volevo spiegare ai radioascoltatori che cosa è successo da Vespa, in due parole semplici. Sì, ma lo sappiamo che è successo in da Vespa. In Casa Monica. Ce lo sappiamo, amico che mio. Che succede? Muore il nonno. Sì. C'hanno due ordini di problemi. Il primo è, tocca organizzare il funerale, no? Sì, allora? Quindi dice, chiama il carro, mi raccomando i cavalli. Vabbè, lo sappiamo, dai, su, allora. E via il secondo, tocca far capire a tutti quanti chi è che prende il posto del nonno, che è Vera, tu dici. E, no, dunque, andiamo da Vespa. E dunque andiamo da Vespa. Non è Vera. Allora andiamo da Vespa. C'è l'opportunità di andare da Vespa. Andiamo da Vespa, ci mandiamo la Vera che fa l'investitrice e ci mandiamo il rampollo. Così tutti quanti. Vabbè, ma queste sono dinamiche di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Quello che hanno in testa i Casa Monica, quello che dici tu, quello che hanno in testa i Casa Monica è una cosa, quello che è successo è un'altra cosa, una trasmissione televisiva in cui ci si è occupati di Casa Monica e della ospite. Che ha fatto? È successo che una trasmissione televisiva ha fatto un'investitura in diretta. Ma quale investitura? Del nuovo rampollo. Ma non è vero, questa è la tua interpretazione che ci può anche stare, ma non è così. Non è così. Può darsi che per loro sia così, ma non chi se ne frega, anche se fosse così. Siamo andati da Vespa, abbiamo fatto capire che l'erede l'ha risolto la televisione pubblica e Vespa. Ma va bene, non possiamo dire che è tutto normale. Guarda, Marco, a me sta benissimo quello che dici tu. Io non sono d'accordo. Oh, ragazzi, Emilio Fede dice che voterà Renzi. Hai eletto in settimana, Parenzo? Sì, come no. Abbiamo ricevuto sempre i soliti file, le solite cassette registrate. Oh, ci arrivano i file della gente che chiama il telefonino di Fede, che lo conoscono tutti. Ma lui non ha cambiato numero ancora? No, niente. Continuano a insultare Fede. Stavolta, da quello che ho sentito, lo insultano proprio su questo, per il fatto di aver detto che Berlusconi è in declino e che probabilmente lui voterà Renzi. guarda, in genere manda a fa un culo di sconosciuti, quindi sbrigati se devi dire qualcosa, e altrimenti chiudo il telefono, ok? Direttore? Sì. Direttore? Sì, siamo un po' Voltagabbana, eh? Abbiamo abbandonato il cavaliere? Leggi bene, cretino analfabeta. Io ho detto se non ci fosse, ma poi non so cazzi che ti riguardano. Ma lei è un po' ingrato, direttore, è ingrato. Ma vaffanculo, fro. Io gentilmente rispondo, però mi disturba molto chi chiama da sconosciuto, capito? Ma mi hanno detto che lei è diventato il lecchino di Renzi, eh? Sì, sì. Ma quanto lecca, direttore? Quanto lecca? Beh, dipende, chiedi la tua madre. Ma ci provo. Quando lei mi leccava il culo, io godevo. Ma non si vergogna? E quando io mettevo il dito culo a tuo padre, godeva anche lui. Ma non si vergogna a passare da un padrone all'altro così? Ma vaffanculo, leggi bene, cretina ignorante analfabeta. E chi è che le paga io i debiti? Detto. Adesso i debiti? Senti cornuto, i debiti me li sono pagati io, non ho avuto una lira. Vergogna, stato... vergogna. Metti il nome. Vergogna. Venga a prendere io, cornuto. Vergogna. Figlio di gran puttana, tu sei figlio di una pomba, hai capito? Vergogna. Metti il nome per permettere di dire queste cose. Tu e tua madre. Come si incazza, eh? Ma io non capisco, ma poveretto, ma viene subissato di telefonate. Guarda che cosa pazzesca, noi riceviamo queste telefonate, cioè, no, ma è una reazione anche la tua, io non so, anche come umana, dici, ma... anche umana direi, ma anche... sì, ma se uno riceve decine di telefonate ogni giorno di gente che lo insulta, scusa, la cosa che mi colpisce è come sono sofisticate le sue invettive, però sì, in questo caso sì, cioè, no, non è sempre che lui con la madre, semplicemente no, sempre chiudere, la madre, capito? Sempre con la madre, sempre la madre, sempre la madre di chi parla, sempre la madre. No, ma anche cose complicate, curiose, dice, no? No, comunque ragazzi, a noi ci mandano sta roba qua, gente che ha il numero di Fede, lo chiama, lo insulta, smettetela perché avete rotto le scatole, dai, ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. Contro tutti quelli che rompono i coglioni, ora di finirla! Gli italiani, l'Italia, gli italiani! L'Italia, gli italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta! Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ragazzi, ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Radio 24. La passione si sente.